Per esempio, nello stesso scusa la tosse, ho un po' della uccisa, e stavo dicendo, ragazzi che lavoravano nella stessa ditta, li mandava un po' in cantiere insieme a questo Artemalle, e dunque si lavorava, e da lì ho imparato a fare l'elettricista, e l'ho fatto 12 anni, l'ho fatto, dopo che ha fallito lì, sono passato lì da Pinomu, dal Pinomu c'era Antonio Scarpa, il radiotecnico, quello che c'è oggi in Punzella, e insieme a quello facevo le antenne, facevo altre riparazioni, anche perché poi il laboratorio lì da Pino Muga a Santa Maria c'era il radiotecnico, e la sera quando finivo il cantiere rientravo in negozio sino alle 8, il cantiere chiudeva alle 5, il negozio alle 8, 8 e mezza, e io rimanevo lì di fianco al radiotecnico, e dunque qualche cosa ho assimilato anche in fatto di elettronica, non molto, ma qualcosina ho imparato, dai, che ho Tony. Questa negozia che tu mi dici più giù della UPI eccetera, ma per caso era giù sulla sinistra, mi ha detto? No, presente ce l'hai dove c'è Capita, ancora oggi c'è il negozio di igiene alimentari di Capita, leggermente più giù, proprio il primissimo UPI che è stato fatto a Sassari, che adesso c'è anche la farmacia, c'è in quel locale lì dove c'era lì al corso, adesso è scendendo, prima era sulla destra, adesso è sulla sinistra scendendo la farmacia, e noi eravamo lì quando la farmacia era sulla destra, eravamo di fianco praticamente, c'era il negozio, che poi successivamente hanno fatto altri negozi, quando sono morti quei titolari lì del negozio, ci sono stati negozi dei cinesi, c'è stata la gelateria anche, c'è stata, insomma, hanno cambiato diverse attività. Un attimo, te l'ho chiamato. Ok, d'accordo, Tony. Ecco, mi sono rientrato. Ah, ok, sei rientrato. Ah, tu lo state facendo già, mi. Adesso si è dovuto allontanare Tonino perché l'hanno chiamato. Ma tempestivamente si è arrivato tu di nuovo, vai. Ah, ecco. No, sono una cosa volante da sbrigare. No, mi sono affacciato dall'altra parte, ho notato praticamente il lampione grande che c'è sul piazzale della stazione, che c'ha due fari fulminati, quindi mi sa che domani mattina faccio la segnalazione, così li mettono a posto. Fai bene, sì, infatti se c'è la segnalazione magari arrivano prima a fare la riparazione, certo. Anche quello, sono cose che noi cittadini, quando li notiamo, dobbiamo anche segnalarli per dare un po' di aiuto anche a tutte le amministrazioni della istituzione, per cui è meglio farlo, dai, buona idea già. No, era già successo, cos'era? Aprile, credo. Sì, è metà aprile, fine aprile, che praticamente c'erano una o due lampade, quindi il piazzale della stazione era veramente buio. Ti sto parlando di quel lampione altissimo che c'è, ce n'è uno centrale alto, grande, che ha cinque fari. Mi pare che funzionanti ce n'era uno o due, infatti c'era il piazzale al buio, e mi ricordo che avevano bucato le ruote di qualche macchina qua. Adesso sì, era metà aprile. No, ho chiamato la mattina, e un paio d'ore dopo c'era già la squadra che stava lavorando. E niente, ho visto che hanno tirato giù tramite carrucola con i cavi d'acciaio il sistema con tutti i fari appesi, e ho visto che ci stavano lavorando. Infatti la sera erano tutti e cinque accesi, adesso ce ne sono tre, infatti due credo che siano andati, e infatti si vede che la luce è calata parecchio. Domani mattina mi sa che gli faccio nuovamente uno squillo. Sì, fai bene a segnalarlo questo piccolo problema, così almeno rimettono in ordine tutto. Certo, e vabbè, dai, meglio così. No, e qui nella strada dove abito io ogni tanto c'è una lampadina proprio nel lampione che c'è sopra la scuola guida, dove c'è la scuola guida, quello alle volte accende, alle volte no. adesso in questo periodo già sta accendendo, ma basta un pochino di pioggia che si spegne, vengono, lo mettono a posto, è tutto fila liscio per qualche giorno, dopo piove di nuovo da capo, di nuovo lo stesso discorso, si spegne il lampione. Evidentemente non è una questione di lampadina, ma bensì di portalampada, io suppongo che sia così, perché loro vengono, sostituiscono la lampadina e tutto va bene. Però a quel punto, se tutte le volte si brucia la lampadina, o perlomeno penso che si bruci, non lo so, ma io dico che c'è qualche problema nel portalampade, perché se no la lampadina rimarrebbe accesa, non durerebbe solamente alcuni giorni, perché le lampadine si esauriscono anche dopo anni, per cui però tutto è possibile, avete considerato che oggi si fanno tutti i prodotti un po' in economia. Avanti già. Sicuramente entra acqua, entra umidità e quindi le lampadine se ne fanno, ci lasciano, come si dice. Vabbè, evidentemente no, poca voglia e si limitano a fare lo stretto di sindacale, amico Montesisi. Sono tornato. Ok, Tony. Sì, certo, è così, o Gianni. Ma magari loro lo sanno, vedono la lampadina che è spenta, cosa fanno? Lo farebbe chiunque. La sostituiscono, vedono che si accende e via. Invece no, però ogni 3-4 giorni tu non puoi cambiare una lampadina, vuol dire che c'è qualche altro problema che si verifica, senz'altro è così. Vabbè, dai, comunque, saremo a vedere. Avanti, Tony. Tornando al discorso poco fa, io conosco bene Vite Miracolo del corso Vito Emanuele, perché mi ricordo che la farmacia era all'angolo via Sebastiano Satta e mi ricordo che c'era un gattone grigio sempre sul mobile della farmacia che ci faceva accarezzare e poi ti tirava la zampata. Poi mi ha parlato di Artemale, io mi ricordo che c'aveva un negozio anche via Capodoro, poi mi corrigi se sbaglio, perché io mi ricordo lì aveva un negozio di elettricità e vendeva pezzi, minuteria, roba così, portalampade, file, eccetera, eccetera. Adesso mi ricordo Marchi Gasperini che c'era in via Rosello, mi ricordo tanti negozi, addirittura di fronte alla chiesa Sant'Andrea al Corso dice un tabacchino, ma tempo, io sto parlando degli anni 60, la UB era degli anni 60, io mi ricordo, ero ragazzino. Sì, quelle lì erano i figli di questo vecchio elettricista, Mallio Artemalle, che abitavano lì alle parti di Monte Rosello Medio, abitavano allora. Sono persone che più o meno hanno all'incirca la mia stessa età. Sì, quelli erano i figli, no, io non ero coi figli, i figli sono venuti dopo, anche perché, ripeto, anche loro erano ragazzini. No, io lavoravo col padre, era il padre il mio istruttore, diciamo, dai, tutto lì. Sì, io mi ricordo benissimo un uomo di una certa età, con i capelli grigi, perché ormai era sbiancato anche lui, dovuto all'età, con gli occhi chiari, una persona molto a modo, veramente in gamba, molto affabile con le persone, eccetera. E quando tu gli chiedi una spiegazione, lui non te la negava di certo. Tant'è vero che in breve tempo mi ha messo sulla strada buona e io ho imparato tutto quello che c'era da fare, appunto a livello di costruzioni e di famiglie, eccetera, e facevo gli impianti insieme a lui. Allora esisteva il tubo Bergman, che tu probabilmente non hai nemmeno conosciuto, era un tubo in lamierino che dentro c'era un cartone che isolava, e per piegare c'era un'apposita piegatubi, perché allora non esistevano il corrugato come oggi, e dunque con questa piegatubi si facevano le curve e tutto andava messo sui muri, niente per terra, non è come oggi o Tony. Mica, senti Piero, addirittura la sesonante c'era la garza, per carità, antico. Vabbè Gianni, comunque io penso che tu forse non eri nato, perché non so la tua età, ma io penso in questi anni qua tu, vero è? Guarda, io sono dal 65, quindi Sì, lì chiaramente anagraficamente parlando non ci arrivo, però alcune cose me le ricordo. Se parliamo degli anni 70 alcune cose me le ricordo, cioè se parliamo prima giustamente no. Sono rientrato, buonasera. Ciao Claudio. Beh, sono dal 54, ho detto tutto qua. Vabbè. Riprendi con la Claudio, c'è anche Giulio. Via. Ciao anche Giulio, buonasera, vai. Sono spostato sul 20 e sto facendo delle prove con questo microfono che mi hanno dato a sistemare. Va bene, avanti Giulio, riprendi. Ok. Ciao qua. Sì, no, stavamo parlando, rievocando i vecchi tempi di quando eravamo ragazzini, io e Tonino, perché lui praticamente ha fatto l'elettricista come ho fatto io, e pertanto io le avevo chiesto se lui aveva conosciuto il negozio La Fiorentina al corso Vittorio Emanuele. Giù. Praticamente il negozio era, esattamente capita, lo sai, no? Cioè Meucci al corso, non c'è Meucci, l'orafo, come si chiama, il gioielliere, più giù c'è capita, i negozi perlomeno una volta erano di capita, c'è il Brasil, ecco. Beh, poi c'è Via Ramai, quella specie di strada con quella specie di porticato che c'è, leggermente più giù c'era questo negozio, e lì appunto avevamo, e di fronte, proprio di fronte, dove oggi c'è la farmacia a Pisano, se ricordo bene, che si chiama così, c'era l'UPIM, il primo UPIM, che poi si era trasferito in via Cesare Battisti, io Toni, forse tu non te lo ricordi perché eri ragazzino allora, in quel periodo, anch'io non è che ero molto grande, però avevo già 10 anni più di te, come minimo, o 12 anche, o 13, vai Toni. Mi ricordo tutto. E i magazzini della UPI che Cesare Battisti c'aveva vicolo San Leonardo. E pare così, ma io abitavo con le zone, via Ramai, numero 5 abitavo io, fate un conto. Io abitavo al primo piano, anzi no, secondo piano, e al terzo piano ci abitava Maria La Pazza, il Paragnosta, comunque per dirti, no? E c'è la fontanella proprio dove abitavo io. Conosco tutto, ti capita. A voglia. Va bene, dai, facciamo girare, Gianni De Credi. Eia, cosa ne bucata a Piso? Cioè, Maria La Pasta, c'è... C'è una... adesso, mi è partito il nastro all'indietro. Ma è scomparso, credo, già da qualche anno. Penso che sia morto, non lo so. Sì, ma che lui ha nominato Via Ramai, capito? Se conoscevo... Ma io ci ho abitato Via Ramai, 4 anni. C'è la fontanella, non so se c'è ancora la fontanella, ci ho più passato. E quindi, niente, capito, ho conosciuto abbastanza. Tu pensi quando ero ragazzino, capito, aveva, faceva il caffè, e poi aveva queste finestre basse che erano inferriate e ci vedeva le forme del formaggio e noi con delle bacchette toglievamo fuori il formaggio e ci scappavamo, ce la mangiavamo, erano ragazzini, dai. Noi facevamo, vabbè, una cosa del genere quando nel via mercato scendeva il camion dell'Agida che doveva consegnare i gelati lì al Bartabacchi da Coso, via mercato lungo via Rosello, dove c'era, adesso mi sfugge il nome, il titolare che aveva i baffi, adesso non mi viene il nome, vabbè, magari mi ritorna in mente. Scusa, non ti stavo seguendo. Cos'era il bar? Allora, alla fine di via mercato, angolo via Rosello, c'era un tabacchino che poi era un piccolo bar tabacchi. E praticamente ogni tanto, ogni tot di giorni, scendeva il camion dell'Agida a scaricare i gelati e noi chiaramente era sempre da solo, una volta che l'autista entrava al bar, arrivavamo in 3, in 4, iniziavamo a aprire sportelli e cominciavano a carra gelati. Sì, quel tabacchino c'è sempre comunque. e l'ultimo passaggio è quello che pare che poi rilancio il caldo, lo lascio nel parcheggio. Sì, quella UPI che dici tu, caro Giulio, è tutto UPI. Praticamente Corso Vito Emanuele, sotto i Pozzi, è l'altra parte che piazza Monsignor Mazzotti, e adesso c'è anche la Marco di Sardegna, e poi c'è la Francia l'altra parte. Ok, riprendi, Claudio. Non c'è problema, io sono alle prese con questo microfono, ve l'ho finito, ma lo stavo dando un'altra controllata, è quello di Gianni. Riprendi, Giulio, mi ascolti bene, sì? Sì, benissimo, ti ascolto, chiaro, bello, perfetto, e come sempre, insomma, dai, va benissimo. Sì, sì, sì, Tony, beh, certo, abbiamo fatto praticamente tutta la fanciullezza in quella zona, anche perché io sono nato in Sassari Vecchio, per cui lì zona Santa Apollinare, in quella zona lì, per l'esattezza via Maria San Pietro, dai. Sicché era una zona che è una zona che abbiamo conosciuto sempre molto ma molto bene, in lungo e in largo, per cui te la ricordi, e Tony, ti voglio fare una piccola domanda, non so, forse non è una cosa così importante, ma tanto per avere un po' di memoria, o perlomeno per vedere effettivamente se tu ti ricordi. Ti ricordi l'edicola che c'era nella piazzetta che c'è lì al corso, praticamente più su di coso, tra il negozio di quella volta Giordo, quella piazzettina che c'era lì, te la ricordi l'edicola lì, Tony? Cappa, che adesso dito c'è il ristorante Liberty, palazzo di vetro, che c'era Giordo lì, esatto. Ok, e all'angolo cosa c'era? Te lo ricordi? All'angolo, guarda che c'era un ufficio, ti aiuto. Non so se vediamo un po' se hai memoria ben ferrata. Avanti, all'angolo c'era un magazzino basso praticamente, e un locale. E ti ricordi che cosa c'era? Ma all'angolo dell'interno o dell'esterno del corso? Sempre all'interno della piazzetta, proprio in fondo, all'angolo, sulla sinistra, entrando. Quando tu entri sulla sinistra. Guarda, proprio quello non me lo ricordo, mi ricordo che all'angolo, al corso, c'era un negozio in merceria. Va bene, quello sì. Sai, allora te lo dico io, forse tu non l'hai conosciuto, perché essendo così giovane probabilmente non l'hai conosciuto. C'era l'ufficio postale. Si andava lì per fare la spedizione dei pacchi. C'era l'ufficio postale. Non so se tu l'hai mai sentito. Sinceramente, no, non mi ricordo. Però mi ricordo dove c'è la... adesso c'è Zara. C'era la standa. Di fronte il banco, credito italiano, lì c'era una ferramenta che si chiamava Sassu, se non vado errato. No, non era Sassu, era Losa. Erano i cugini di Losa che ancora esiste, che oggi sono lì in Piazza Castello e poi giù anche a Predanieda. I cugini, e io mi ricordo da bambino, che mi mandava qualche volta il principale dove lavoravo io, quando entrava un cliente accendevano la luce, perché quel negozio era sempre al buio. Anche perché c'era un fratello e sorella che lavoravano lì come proprietari, noi commessi praticamente, che non è che ci vedessero molto bene, però nonostante tutto il locale era sempre al buio. Quando arrivava qualcuno, allora accendevano la luce, qualche volta, non sempre. Quello era Losa. Quello Sasso, vabbè, Losa, siamo lì comunque. Mi ricordo c'è un bancone lungo e legno antico, dove hai visto Gianni, quante cose, sì, se si va a ripescare nel passato, adesso, vabbè, io abitavo in via Mercato, di fronte al mercato del pesce, quindi stiamo parlando dei primi del 70, dai, quindi Pischiello, ragazzo uccello, come si suol dire, e quindi si girava lì intorno il famoso quadrato, via Mercato, piazza Pescheria, via La Marmora, via Rosello, poi piano piano, col passare degli anni si allargava la zona di competenza, come ti si dice. Mi stanno mi stanno salendo in mente un sacco di ricordi di vicinia, come si suol dire. Sì, poi chiaramente ci si spingeva anche oltre a conoscere il nuovo mondo, come si suol dire. Pezzino bizzone, come ti dico voi. Ma se mi stai ricordando di via Mercato eccetera, che abitavo in quella zona, hai conosciuto anche Ignazio Cabimanno, che abitava in vicolo chiuso vicino a Barbiere Brasse e Calcione. Sì, sì, positivo. E l'abitava anche che era a scuola con me, Luciano Bovissolo, Nutella. Ehi, positivo anche lui, abitavamo vicino a casa. Andrea, Stefano, Walter, Luciano e tutti gli altri, dai. Quanto è piccolo il mondo. Claudio, riprendi. Sì, ne approfitto e mi sposto un attimo a fare delle prove. Le prendete voi e rimango in quel rischio. Avanti, Giulio. Ok, qua. Sì, beh, certo. Vabbè, sono discorsi che abbiamo tirato fuori così, poco, diciamo così, impegnativi, cioè poco apprezzabili magari alle persone che non hanno conosciuto quell'epoca lì o Tonì, però c'era tanto da dire, ma devo dire che alle volte i buoni ricordi fanno anche bene, quando hanno costruito il grattacielo dove c'è l'osa adesso, i negozi che c'erano lì nel circondario di quel padiglione, ti ricordi dove li avevano trasferiti momentaneamente? Vediamo un po' se te lo ricordi. No, caro Giulio, non ci arrivavo a quelle zone, al fine io, non me lo ricordo. Allora, davanti alla caserma che c'è lì in Piazza Castello, sul marciapiede, partendo dai giardinetti che ci sono, dove c'è quella specie di cosa, di monumento sotterraneo, eccetera, sul marciapiede, sino ad arrivare alla fine del marciapiede per arrivare via Cagliari, cioè ai portici, avevano costruito delle casette provvisorie, praticamente dei magazzini, e tutti i commercianti che c'erano nel terreno dove hanno costruito il grattacielo, perché hanno dovuto abbattere chiaramente tutto quello che c'era prima per poter costruire il grattacielo, li avevano spostati su questi magazzini e dopodiché li hanno riportati al loro posto, tutto lì Tonì, e chiaramente quelle casette, quei magazzini li hanno demoliti, li hanno ripulito la piazza, per così dire. Chiappa. Voglio vedere se sai una cosa. Allora, chiamata Piazza Castello perché lì c'era il castello. L'hanno demolito il castello, giustamente qualche cosa che c'è nel sotterraneo, farlo vedere le cose che c'erano. Sai tutto il blocco di Piazza Castello dove li hanno messi? No, questo no, no, non mi viene in mente questa storia. E cosa c'era di preciso? C'era il castello, quindi è stato demolito. Si chiama Piazza Castello perché c'era il castello, lì c'era. E come l'hanno demolito? Ma penso che forse, non so se è rinato, forse è molto più indietro, questo l'ho saputo io, dai miei vecchi buoni, ma capito? Allora, tutto i buchi del castello, eccetera, l'hanno messo in quella valle che poi hanno fatto la strada di Viale Trieste, perché lì era tutto fossato. Sì, sicuramente sì, ma io in verità non me lo ricordo, la verità. Vabbè, poi ormai mi ero anche spostato, magari non frequentavo più quella zona, raramente ci passavo, poi la mia zona era diventata abitui il Monte Rosello, perché ho lavorato per tantissimi anni lì, perché il mio tragitto di strada era da Monte Rosello alto a Monte Rosello basso e così via. Poi quando mi sono sposato il mio tragitto era dai punti a Monte Rosello basso, dove appunto avevo la bottega. Per cui no, Tony, ti direi una bugia, non ricordo niente di quello. Sì, so quando hanno fatto quel monumento sotterraneo, d'accordo, questo sì, però cosa ci fosse prima non me lo ricordo assolutamente. Cappa, dopo ti dico altre cose, avanti Gianni. Comunque, a parte sì, a me ricordarmi queste cose mi riporta come che le stai vivendo in questo momento. Fa piacere sentire queste cose qua, capito? Avanti Gianni. Oh, pronto. Avanti pronto? Pronto? Avanti pronto? Ma fischiando sto, pronto? Sto fischiando? No, non stai fischiando, stai solo parlando. Ah ok, dai, no, ciao Giulio, dai. No, perché boh, stavo facendo una prova con Claudio con prima, no? C'era anche Gianni Broffetta che stavo innescando. Infatti ho detto sospengo un po' l'alimentatore e vorrei capire dove è il problema. Non sospendiamo un po'. No, non sento niente, dai, perché sennò sentiva la colonia del baracchino. No, io non sento niente, adesso chiediamo a Tonino se sente qualcosa lui, io non sento niente, io ti sento una modulazione pulita abbastanza buona. Avanti Tonino. Idem come sopra, perfetto, nessun rumore di fondo. Vabbè Tonino è sordo Giulio, non è che mi fai l'estendiato io, Tonino è sordo, non sente. Ma fa culo. Bastardo. Ciao frate. Ciao Tonino. Vabbè, non lo so, perché, boh, dicono una lampadina del rosmetro, non so, l'alimentatore è impossibile che è un 50 ampere. Guarda che prima sei entrato ieri lo stesso perfetto che ti facevo un difetto, avevi detto lui. Ah, boh, non lo so, adesso, ma anche ieri me l'ha fatto, quanto mio bombolo. Boh, vabbè, dai, avanti giù, le prendi, dai. 13 watt, modulati. No, modulati sono 10, 12, dai. Ok, no, sta andando bene, la radio è buona, Luca, no, nessun rumore, niente, no, per me è perfetta, almeno in questo momento, in questi passaggi che hai fatto, se poi successivamente ci sarà qualche innesco o qualche rumore, senz'altro te lo dirò, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Ma c'era anche Gianni Rubrofetta, avanti Gianni, sì. Eia. Sì Luca, tutto a posto, dai, come gli ultimi passaggi hai fatto poco fa, no, no problems. Ah va, cazzo abbordante, beh. Cioè, è come lì, è l'internazionale, no? C'è uno scemo che si mette a fischiettare, a fare, ma perché non li lasci in pace? Da mattina presto, perché mi sveglio presto, lo accendo e si mettono a chiacchierare. E c'è questo qua che mette musica, fischietta, offende. Boh, questi qua aspettano che entrano gli altri per mettere la portante. Vuol dire non c'è altro da fare. Io mattina vado a lavorare, non lo so, il baracchino ma con gli accendo, me devi dire per carità. Oh, cosa volevo dire? Una cosa solo a Giulio, se si ricorda, dato che frequentava quelle zone di Ramai, Capita, eccetera. E in via Voghera ci andavi? La Busolera, caspita! Adesso ti racconto un po' la storia della Busolera, ti ricordi che lui metteva sempre il sacco del carburo davanti alla porta, al corso, no? Giù in fondo. E allora era il periodo delle centilene, ti ricorderai di cosa sto parlando, cioè il famoso barattolo di latta, di conserva, eccetera, eccetera, di pomodoro, eccetera, un buco per terra, un po' d'acqua, il barattolo, il carburo e fuoco, e via che sparava il barattolo. E dunque tutto il carburo che gli cadeva per terra, dal sacco, noi ragazzini, ma ragazzini di 7-8 anni, anche più piccoli, andavamo a raccogliere questo carburo che c'era per terra e lo utilizzavamo per fare la centilena. Ti puoi immaginare, vedo Gabu, va via, che cosa pericolosissima anche tra l'altro, Tony. No, io ti ho fatto un'altra domanda e tu mi hai risposto un'altra cosa ancora, che io ricordo anche quello, che facevamo un buco, ci piscevamo dentro col carburo, il tappo, il barattolo sopra e basti a razzo, fisso me l'ammetto. Io ti ho detto via Voghera. Via Voghera, no, non so nemmeno dove, perlomeno adesso io non ricordo assolutamente dove via Voghera, e dov'è? Piazza, noi la chiamiamo Colonna Mariana, dietro. E beh, piazza Colonna Mariana dietro, dove? Ma dove abitava Giovanna la Giovisa? Guarda che là c'erano anche le mattoncelle. No, non me lo ricordo, veramente, non me lo ricordo. Io mi ricordo di via Fregaglia, mi ricordo, no, via Voghera, no, mi ricordo il posto di Vida che era tutto praticamente collegato, facendo strada lì, queste cose così, sì, ma questo via Voghera no, non me lo ricordo, no, assolutamente. Tu. Sì, il posto di Vida, alla fine mi sto collinando. Sì, ma c'è una portantina, ma a me non mi fa niente, a voce non mi fa niente. Gianni lo profeta. Ehi, adesso mi stava saltando fuori il nome di una donna di facile costumi che frequentava via 25 aprile, molti anni che furono, e mi sfugge il nome, ce l'ho proprio sulla punta della lingua, però ancora non mi viene. C'erano due sorelle lì un tempo, come si chiamavano? Abitavano prima della discesa per l'ottava. Boh, no, vabbè, io sto parlando di qua, di all'uscita di via 25 aprile. Capitina, sta quasi per uscire. Boh, non mi viene in mente niente. Ma che c'è dei quadri, quelli si sedevano lì, alla fine hanno tutto costruito e tappato tutto, allora ti mosi più. Oh, yeah. Ecco, Marinella, questo nome è Marinella, non so se ti dice qualcosa. Quella robusa? Gianni, non è parlare, fai la cortesia, non è parlare di quella persona, dai, che appartiene ad un amico, apparteneva ad un amico, dai, non è parlare. Sì, l'hanno conosciuta, d'accordo, però non è parlare, fai la cortesia. Sì, c'era che il marito che sta al baracchino. Pardon, chiedo venia, non volevo creare nessuna. Mi era saltato solo questo ricordo e basta, quindi chiudiamola qua, dai, non c'è problema. Ok, ognuno nella vita ha fatto quello che ha potuto, per cui non niente da dire, criticare nessuno, assolutamente. Sì, un'altra cosa ti volevo ricordare, questo a livello di sport, Tony. Quando c'erano i ciclisti dilettanti di Sassari, i vari Umberto Mura, quello di quello del negozio generale mentale, non mi ricordo come si chiama, e Cicino, Flaminio, Tonino Cano, tutti questi ciclisti che praticamente andavano lì da Scano, quello che aggiustava le biciclette in piazza Sant'Antonio dietro l'edicola, ti ricordi quando facevano le volate in bicicletta, che tutte le sere immancabilmente andavano su dove c'è il rifornitore di Corte Santa Maria, quello su in alto, da lì si mettevano in linea, davano il via e facevano la volata sino a davanti a Cappelli della stazione. Te la ricordi quel particolare delle volate, Tony? No, quelle volate non me lo ricordo, ma mi ricordo che la maggior parte dei ciclisti alla riunione che trovavano, non so se c'era un ciclo per loro, era l'inizio di via Sorso, te lo ricordi? Quella era la Fausto Coppi, quella è venuta dopo, quella è una società sportiva che è nata dopo, successivamente. No, ma prima ancora, i veri dilettanti, diciamo quelli forti di una volta, tipo Umberto Mura, che era sicuramente il più forte ciclista che avevamo a Sassari e anche in Sardegna, facevano queste volate, facevano. Un bel giorno l'hanno saputo i vigili urbani, l'hanno saputo questa storia, che c'erano queste volate di biciclette. L'indomani sul giornale rischiano la vita i ciclisti di Corso Vicola. Boh, da quel giorno tutto chiuso, perché c'erano sempre i controlli dei vigili urbani e hanno interrotto queste volate. Guarda che ne scendevano a 70-80 all'ora, se non anche più forte, perché prendevano la volata da Corte Santa Maria, da sud, da dove c'è il rifornitore, a tutta birra, sino a arrivare davanti a Cappelli di fronte alla stazione, con il gusto di prese il ricambio. Quando hanno scoperto il vigile urbano, boh, tutto è finito lì, però è durato per un bel po' di tempo questo discorso. La gente lì in Corso Vicola, tutti a vedere le volate, tutte le sere, lo sapeva la gente e si ammucchiava lì la gente proprio per vedere queste volate, che erano spettacolari. E vi ricordate del vigile Paperino? Di chi? Il vigile urbano Paperino. A voglia, te lo ricordo, quel tipo bassotto, che poi non era poi così tanto bassotto, sarà stato alto 1,65 m più o meno, all'incirca una cosa del genere, 1,60 m, non lo so. Sì, e quello faceva contravvenzioni anche a se stesso, se tu facevi da monello. Io mi ricordo un particolare che c'era scritto sulla Nuova Sardegna, ero ragazzino, botta e risposta. Sono ok. Il signor Paperotto ha fermato questa macchina all'uscita del porto del Rosello e non fa tempo, ma non so perché infrazione. Nel mentre questo qua dice, si è tolto la sigaretta in macchina, mi fa accendere, lui prende l'accendino, fa accendere e gli fa la multa, dice io sono finanziere, lì non c'è il bollone nell'accendino. Botta e risposta. Ah, che sì, l'avevo sentito quel particolare. L'avevo sentito quel particolare. Ma Paperino, così chiamato, lo conoscevano tutti a Sassari, era un vigile severo che faceva rispettare la circolazione stradale, la faceva rispettare anche contro i pedoni. Se ti vedeva attraversando la strada col semaforo verde per il pedone, e ti fermava e ti faceva la multa, e non si scherzavano con Paperino. Vabbè, comunque faceva il suo dovere. Avanti Gianni. Ehi, adesso mi avete fatto ricordare i vari inseguimenti dei falconi contro mare del Rosello, inseguendo qualcuno in Vespa contro mano da una barca all'altra, cioè, all'epoca avevano i falconi della Guzzi e le macchine avevano le Fiat 128 verniciate nere e bianche. 128, 127, venero. Il 130 se ne con quel periodo là, io mi ricordo invece le famoso 1100 di tutto verga, ogni macchinone. Quando ero ragazzino, quando andavo con la bicicletta, sono salito al corso Tony e ho girato così improvvisamente in via al Rosello, dal corso per entrare in via al Rosello, e poi tra l'altro non si poteva entrare lì perché c'era sempre a senso unico, via al Rosello è stato sempre a senso unico quando avevano permesso di passare qualche macchina, qualche moto, insomma, eccetera. Caspita, il caso ha voluto che ho fatto girando io e non c'era un gruppo di tre vigili urbani proprio lì, a momenti di investo come sono entrato, anche perché sono entrato un po' forte, pedalando un po' forte, io ero un ragazzino, cosa avrò avuto? Avrò avuto 13 anni, una cosa del genere, più o meno. Come sono passato in mezzo fra i vigili, uno di questi mi scudi un colpo alla lattica, sono questa una pietra che mi duria la lattica. Però non mi sono fermato, ho continuato a correre in bicicletta con Tony. Lui, cose che non si combinava quando eravamo bambini, dai Tony. No, fa piacere comunque, mi ricordo che lì al lago del Rosello si mettevano quelle di, non so se era sì, non ne so, sotto le limone di 100 lire, che non mi rammento. Avanti Gianni. Eia, adesso mi stavano prendendo in mente altre cose, successo, una volta, non mi ricordo, era l'ambulanza della Croce Verde, ed era, cos'è, la Citroen mi pare, che stavano inseguendo qualcuno, c'erano dei vigili a piedi e stavano inseguendo questa qua praticamente, la Citroen, la vecchia CX della Croce Verde, praticamente è arrivata alla testa di Mongini, mi pare che si è incastrata, non riusciva più ad andare avanti, va, una risata. Beh, la Croce Verde ce l'aveva l'unica, che praticamente lui andava a accompagnare i figli anche a scuola con l'ambulanza. Non ne avrei avuto, che hanno fatto sotto un po' trusito e va via lo gozzo. Si può? Cioè, avanti. Si può avanti. Provate, buonasera a tutte e tre. Gianni, Tonino e Giulio. Ma chi c'è, cosa fate? Avanti. Ciao Bacchisi, ben sentito, avanti Giulio. Ok, ciao Bacchisio, ben entrato. Ti mando avanti Gianni Dubrofetta per salutarti. Avanti Gianni, per Bacchisio. Ciao Bacchisio, buonasera, ben entrato qua sul canale 10. Buonasera, avanti. Sì, buonasera a tutte e tre. No, non è il prefetto, è il re degli uccelli. Gianni, bisogna chiamarlo il re degli uccelli, Giulio. Caspita, così lo stai promuovendo, le stai dando una medaglia di merito in più. Ah, Gianni, hai visto quanto ti vuole bene Bacchisio? Caspita, andare, bene meda, dai, aggiungiamo la bacheca, dai. Sì, va bene. E allora Bacchi, tutto bene, sì? Quello che va bene giù, sempre allo stesso punto siamo. Oggi si migliora, domani si peggiora. Ah, cosa vuoi che ti dica Bacchi? Sono uscito oggi per per necessità di casa, perché ieri si è bucato con lo scaldabagno qui, sono andato a comprarlo, prima di entrare nel negozio, scendendo dal marciapiede, metto male la caviglia e avasso col zuppo, perché mi ho slogato la caviglia, porca miseria. Va bene, dai, comunque, passerà anche quello. Avanti, Tony. Bianco per me un attimo. Sono cose che succedono. Io una volta sono andato a trovare mamma al cimitero e in quelle scaline, l'ultimo gradino, c'era una pietra, non l'ho vista, mi si gira grombili, ho visto tutti i santi in paradiso, ma carità, è che feo, no, sono stato preso una settimana da lui, guarda. Sì, purtroppo è un po' di un ematoma, mi si è formato nel fianco del piede e dunque adesso vediamo un po'. Passerà pure chissà, solo che domani mi serviva la caviglia che funzionasse perfettamente, perché domani devo andare a fare una visita di controllo, per cui ci andrò zoppicando, cosa vuoi dire? Niente di più posso fare, ci andrò zoppicando. Avanti Gianni. Scusate un attimo, c'ho una bassa in corso. Ok, avanti Bacchi. Adesso non è che la bassa, no? Perché avevi vantato e avevi due figli, dunque lo sto mettendo a posto. Oh, yeah. Adesso vuoi fare Giulio, ma non c'è solo un momento. Io c'ho la piegatura delle gambe, non i posti, non mi tutto giovincite. Pensiamo, un mese così, punture, contro punture. Fastidiette, limone in alluminio, del tutto non mi passa. Ma chi? Ma non è che c'aveva le vele nel disco, no? Ma adesso sto aspettando il risultato della lastre che ho fatto già. Sto aspettando il risultato. So che queste lastre le fanno subito, perché di oggi te le fanno domani. All'anno di vele. Sto aspettando il risultato di quello lì. Perché io ho un dolore sempre nella cavaletta, dalla natica fin giù e un po' mi si addormenta, poi ricolio, poi se sto molto in piedi mi devo sedere perché mi fa male. Ho fatto il risultato magnifica e ho tre del disco a capito, due piccole arrivate. Infatti sto aspettando un altro po' e poi devo fare questa visita e andare fuori a operarmi al laser, perché anestesia totale non la posso fare perché sono cardiopatico. No, questo l'ho visitato, lunedì, l'ho predico, e mi ha detto, solo suppone lui ci siano delle piccole fratture al lombo. Okay, speriamo di no. Mi auguro che sia almeno qualche rinita che si può eliminare, ciccia. Speriamo. Gli metto un po' di cemento, ho un po' di colla incollata dopo, dai, vino a vino, giro Dio. Non funziona assai, no? Dove c'è umidità, vino a vino funziona assai, ma chi? Purtroppo tutti i giorni ce n'è una, ma io l'ho sempre detto, Tony, sarebbe stato meglio avere sempre 20 anni, quando uno ha 20 anni non va mai nuda, corre come c'è un pudezzo, così si diceva una volta qui a Sassari, e tutto va bene, e mi sta solamente a mangiare e a innamorare, vero Bacchi, Tony? È vero, sì. No, è vero che a me il dottore mi ha detto, questa pancetta che c'hai, poi devi dimagrire, ecco perché l'ernia, quello, quell'altro. Ha detto, ma scusa, quelli grassi che sono tipo di me, sono tranquillo qua nel disco. E mi ha detto, quelli della vita non ho mai fatto niente. Tu il lavoro che fai, pensi, quello e quell'altro. Tu pensa quando noi smontiamo un motore dell'anticidio, comincia a pensare tanto a 120 chili. Buccia di gioca, in due se lo sollevi e sali le scale, metterlo in macchina, portarlo a aggiustare, poi ripiazzarlo, insomma, sforzi adesso, sforzi domani, 23 anni alla fine. Tu glielo dovevi dire, Tony, meglio un po' di pancetta che anulissico, perché ci sono l'effetto delle bistecche, tu gli dovevi rispondere, questa è la pancetta, solo l'effetto delle bistecche che mi hai mangiato. Così lo facevi anche in gelosine, magari è da una vegano. Avanti Bacchi. Sì, così. Ho fatto la domanda giù, per tornare indietro un po', ai tempi dei 18 anni, non per rimedio, non aspettami. Quando erano tutti e due il curro della peli, cioè Bacchi, te lo ricordi, allora a tempi belli, e cosa facevi? cosa facevi, Gaspita? Facevi lavoro, palestra, casa, lavoro, palestra, casa, tutti e due, bei tempi per noi erano quelli. Oggi siamo vecchietti e vabbè, la vita la prendiamo come viene. Facciamo così, Bachì, le prendi? Beh, mangiato già i molidotti, non so più, non c'è più nulla giù. 18 anni sono passati, 20 sono passati, via dicendo. Ma se ritorno indietro, non dica sai, mi bacano i 60 anni. Insomma, sarebbe una bella idea. Io ho pensato di fare la domanda all'anagrafe per vedere se mi possono scalare un po' di anni, ma mi hanno già detto qualcuno che se ne intende che non è possibile. E cosa vuoi che ti dica? Io quel tentativo lo vorrei fare, ma mi sa che sarà veramente impossibile. Vero, Tony? Non te ne restituiscono anni? A meno che non inventi una macchina del tempo a tornare indietro. Ancora, non potevi venire un po' lì a camminare e correre. Purtroppo non posso più correre perché correre nel disco è un casino. Sei entrata? Ok Gianni. Tempi belli erano, Tony, quelli lì erano tempi veramente belli perché eravamo tutti ragazzi, giovani, frequentavamo la palestra, facevamo i nostri allenamenti, facevamo le nostre corse e dunque ci siamo anche divertiti. Abbiamo sacrificato perché lo sport noi lo facevamo a livello agonistico, dunque era impegnativo. Pertanto sacrificio ce n'è stato tanto, però per tantissimi anni ci siamo anche divertiti, io e Bacchisio e anche altri amici naturalmente. Avanti, ti prendi Gianni. Eia, vabbè, mi sono perso il resto della chiacchierata, quindi cosa vi dico? Gianni, intanto Dolcini non ne ha passato nessuno, per cui non hai perso un granché, non hai mangiato Dolcini, nemmeno noi. Era Tony. Allora, Gianni, dimmi tutto. Tu ricordati solo Maria la Pazza. Non ti ho capito, Tony. Forse hai un po' la preperfettazione, il microfono un po' alta. Ti sento un po'... Io, poi gli altri magari. Ti sento un po' cro. Io avevo abbassato, lo abbasso ancora di più. Ho detto, tu ti ricordati solo Maria la Pazza. No, già... Già ce ne sono ricordi, a voglia. Adesso no, mi è salito in mente quando è stata fatta la citazione, poi basta, nient'altro. Si sedeva lì nei gradini, dove c'è sotto i portici, e via. Andare, non si nuova quando si andava a Giulio, a Rosello. Scendevamo giù, ci facevamo il bagno, andavamo ad oggi, via. Mi ricordo quando ero ragazzino con i miei amici, siamo andati a rubare le patate, un bordicino c'era lì. Poi ci hanno seguito gli zingari, avevamo i fusilli di patate, però facci seguire che ho tirato tutte le patate addosso, senza il divertimento. Già me la metto di Labadogio, io, capita. Adesso mi è fatto venire in mente un carrozziere, allora lì a Santa Maria c'era un abbeveratoio, no? Dove tutti quanti questi coi cavalli andavano per abbeverare i cavalli, no? E un giorno arriva questo carrozziere e non ti ha trovato un paio di bambini dentro il bascone. I mudandi, prendersi il bagno dentro il bascone dove andavano a bere i cavalli, se la poggio mano a tutti e due, ai capiotti. E se la mandati, quasi senza mudandi se la mandati, incredibile, ragazzi. Quella beveratoio, te lo ricordi, Tony? Gappa, ma io proprio un po' piccolo ero, ma tu sei molto più grande di me, io, Giulio. Io lo grido, grazie, tu ne hai 66, hai detto, poc'anzi, e io ne ho 12 in più, per cui ti puoi immaginare. Dunque ho più ricordi di te, Tony, ovviamente, dovuti alla mia più lunga età, perlomeno fino a questo momento. Beh, certo, Tony, è una Giuseppe Antotto, computer. Già te le porti bene, io ti mantengo così, Giulio. E anche lo spirito che hai va benissimo, mi fa molto piacere questo. Ok, Tony, io cerco di tirare avanti perché si può nel modo migliore possibile, poi quando non sarà più possibile pazienza, però diciamo che la vecchiaia già si fa sentire, si fa sentire, te lo sto dicendo oggi, quella storta che ho fatto una caduta a Bolo d'Angelo, 50 metri volendo ha giubato, la porca di una miseria, ma comunque è passato ormai, la caviglia mi fa male, d'accordo, ma già passerà anche quella. Avanti Bacchisio. Già passa la caviglia piano piano. E di Gravenceta ve lo ricordate, Giulio? E a voi adesso ve lo ricordo, anche un bel ricordo io della famosa Gravincella, quando andavo quando andavo ad allenarmi la mattina, no, tu lo sai, tanti di noi andavamo la mattina presto per fare allenamento, no? Andavamo per ossigenarci, eccetera, quando praticavamo lo sport dell'atletica. E sono entrato in questa campagna, a un certo momento ti sento chiamando Giulio da lontano. Mi giro, era una voce di donna, e cos'era? Ero proprio nella campagna di quell'uomo lì che hai detto tu poc'anzi, ed era la nipote, era Bacchi, vabbè, mi sono avvicinato, questa qui dice che viveva sempre a Cagliari, e dice, ma io non ti conosco, ma io ti conosco perché vieni molto spesso anche a Cagliari a gareggiare, sì è vero, tante gare io le faccio anche a Cagliari, non solo a Cagliari, un po' anche in Italia e un po' dappertutto in Sardegna, e è per quello che mi conoscevano, e mi sono avvicinato e poi da lì il resto te lo puoi immaginare, non ti racconto di più, perché non è bello raccontarlo, vai Bacchi. Via Vincella, era nipote, non lì era, a sé dove si fermava per andare a Cagliari, dove adesso, come si chiama, ho anche funere, al monte dietro il chiosco, appena fatto via il Monte Rosso, il ponte, il chiosco del giornale c'era una volta lì, e c'è ancora. Trucchetti, lì si fermava, da lì partivamo con la 600 multipla per Cagliari. Ok, ma chi? Sì, no, io ripeto, da quel giorno poi non l'ho più rivista, magari lei mi avrà rivisto sicuramente tantissime volte, quando andavamo a fare la Cagliari Poeto Cagliari, oppure la Cagliari 4 Sant'Elena e tante altre gare, sicuramente lei mi ha visto più volte dopo quel fatto lì, ma io non l'ho più rivista, per cui non so cosa dirti. Va bene, avanti Gianni. Ehi, adesso Tonino mi ha fatto ricordare quando da piccoli scendevamo lì alla Vallata del Rosello, e c'era un signore anziano che praticamente aveva ricavato un piccolo orto lì, e come stava dicendo lui, piantava un po' di roba, e puntualmente ogni tanto alla cua cercavamo di scendere a mangiarci qualcosa. E una volta ci aveva tirato al lardo, non è correndo, mi ha crampata sui ciottoli umidi cercando di scappare per risalire su a, come si dice, all'ingresso del ponte, dai. E quindi confermo la cosa. Altri tempi erano già. Però vedi, io le rimpiango la gioventù, perché allora a quei tempi non c'era malizia, non c'era delinquenza, non c'era droga, non c'era gente stronza, si viveva la giornata e ci divertivamo anche con il poco. Oggi invece no, sono tutti viziosi, oggi c'è troppo benessere e quindi la gente è viziosa. Vero Giulio? Sì, beh certo Tony, purtroppo i tempi sono cambiati radicalmente. Prima, quando eravamo ragazzi, noi ci accontentavamo di pochissimo, ci bastavano pochi piattini, tappi di gazzosa, eccetera, per giocare, per dire, a fare il Giro d'Italia, oppure a fare la bacchetta all'andata, come si dice, a Primo Monte, con le figurine, queste cose qua, ci divertivamo in quel modo. Oggi invece i giovani di oggi, la maggior parte si divertono con la droga, si può immaginare. Oi. Però diciamo che c'era anche meno violenza, c'era anche meno traffico, prendevi un pallone, giocavi in tutte le strade di Sassari, magari passava qualche vigile, ti sequestrava anche la palla, questo sì, ma no, oggi no, tu non vedi più nessuno giocando per strada, difficilmente vedi dei ragazzi giocando per strada, no? È tutta un'altra musica, è cambiato totalmente, non c'è più spazio. Prima avere la carrozza, vedi, se ti mettiamo attaccata alla carrozza, un carrozzeri con un vuoto che mi cavava luci da quando noi eravamo seduti sulla sbarra dietro della carrozza, ti ricordi, Tony? Ecco la forza al comandamento, non sono in moto a carrozzella, scusate, via. No, sino alla prossima che mangio io, con i pallotti che c'ha, se bruciamo i chili, tanto farà mai che aveva longa, altri divertimenti. Ma senza andare sei lontano lontano, ma chi c'è, te lo ricordi quando c'era proprio il boom dei CB? Che anno era? Il boom dei CB, dunque, che anno era? Era intorno ai 64, 65, anche 76. Era il boom, proprio c'era la marea, alta marea c'era. No, volevo ricordare a Giulio, ti ricordi Giovanni e Renzo Casula? Non riuscivo mai a batterli. Erano sempre primo, secondo e terzo. A Cagliari, la Coppa dei Castelli. L'unica volta che ho vinto a Cagliari, una tazzina di caffè e dei miei branchi. Prima si vinceva così, i premi erano quelli, una brancia, un rasoio da barba, un paio di scarpette da pizza, queste cose qui, e qualche premio in denaro anche, ma allora i soldi valevano almeno rispetto al valore di oggi. Oggi avere per dire che so io 10 euro è come non avere niente. Prima quando avevi 10 euro era quasi uno stipendio di una settimana intera di lavoro, quando vincevi una gara, che magari ti vincevi 15 euro, dico 10 euro al primo, e andando scalando sino al settimo, anche all'ottavo e tante volte anche al decimo, c'era sempre qualcosina, ci si divertiva così, ma lo facevamo per pura passione per la pratica dello sport. Oggi anche l'atletica leggera sono diventati professionisti, oggi sono tutti pagati, oggi ci sono gli sponsor, ti vedono lì sulla linea di partenza, si avvicinano, ce l'hai lo sponsor? No, quanto vuoi? 500 euro, va bene, e ti dà lo standard e te l'attacchi alla maglietta e tu fai pubblicità, per dire, no, guadagni così. Mi ricordo anche Renato De Palma, me lo raccontava tutte le volte che rientrava da Torino, mi dice, io con quei soldi così dello sponsor in continente erano più propensi a queste cose, dice, mi sono costruito la casa, Renato veniva sempre da me, anche perché da via dove lavoravo io, in via Nuzio Cevi, ci abitava la famiglia, cioè la mamma di Renato De Palmas, e veniva a trovarmi tutti gli anni, mancabilmente facevamo delle lunghissime chiacchierate. Bene, bene, riprende, fai girare tu, Bacchì. È passato quei tempi giù. E tanto, nella mia attività, che in quegli anni sono stato a fare lo sport, ho guadagnato 20.000 lire e una chicchiera di caffè. E sono contento per il guadagno che ho avuto. Bene, un attimo che spillo il telefono e rispondo. Va bene, vai Gianni. Eia, vabbè, io non ho fatto attività sportiva, quindi no. No, comunque ho qualche amico che si cimentava in cose di questo genere, e quindi quando mi capitava mi raccontava anche le sue esperienze, dai. Beh, sicuramente è stato un bel momento e anche un bel passatempo per molti. Io ero più indirizzato su altre cose e niente, quindi diciamo che da quel punto di vista sono risultato un po' più mandrone, dai. Comunque certe cose mi hanno sempre affascinato, chissà perché, ma forse è più bello guardare gli altri fare certe cose che non fare più a persona. Ognuno, ripeto, come ho detto almeno mezz'ora fa, ognuno ha fatto nella vita e fa quello che può fare. Gianni, non tutti possono fare lo sport, non tutti piace, per cui magari fanno altre cose anche più importanti dello sport. Va bene così. No, e se sapessi quanti giri che ho fatto di giro del cimitero, si chiamava così, lungo un chilometro, quante gare che ho fatto per anni e anni e anni, si partiva da davanti alla chiesa, lì di via Aurelio Sacco, in Badesia di Salviaria, lì alla Piazza Sant'Antonio, e si faceva via le Porte Torres, via San Paolo, e poi Corso B, dico e si ritornava lì, un chilometro. Dice, quanto è oggi la gara? Oggi è da 10 km, 10 giri. Sapessi quanto sacrificio e quante sudate che ho fatto io e tutti gli altri, non solamente io, e tantissimi, e tutti gli altri che correvano anche prima di quando ero nato io, ai tempi di Italo Manzoni, magari Battisio già se ne ricorda, eccetera, eccetera, pur non di certo. Va bene, avanti Tony. Ecco, mi è sempre bello ricordare i vecchi tempi. Bene, signori, io mi devo preparare un po' di qualcosa. Ok, e quindi, bello parlare, ricordare i vecchi tempi, erano altri tempi che io rimpiango. A oggi che oggi, se prima si stava male, si stava meglio di oggi. Anche se oggi stiamo bene, ma stiamo male, ci mandiamo bene la realtà, non dico altro. Va bene, mi ha fatto un immenso piacere.